Signorina Sophie? Ho chiuso il negozio. Ma non potrebbe venire anche lei, signorina Sophie? È che voglio finire questo. Voi divertitevi. Allora, arrivederci a presto. Andiamo? Un momento! Ah, sarò ridicola con questo! Ehi, guardate, c'è il castello di Howl! Cosa? Howl? Dove? Dove? Eccolo, è così vicino! Oh. Accipicchia! Chissà se Howl sarà in città! Si sarà solo nascosto col piano di truppe che c'è. Ehi, ma avete sentito? Marta, quella ragazza della città a sud, il cuore le è stato ghermito da Howl. Che paura! Tranquilla, su di te non metterà mai gli occhi. Vogliamo muoverci? Sul serio? E dai, smettetela! Salve, stai forse cercando qualcosa, Topolina? No, ecco, non si preoccupi. E allora ti andrebbe forse di prendere un tè? Posso avere l'ardire di invitarti? No, vi ringrazio, ma avrei già degli impegni. Ma è veramente una Topolina. Senti, quanti anni hai? Sei di questa città? Lasciatemi passare. Visto? È tutta colpa di quel tuo muso baffuto. Certo che è carina, persino da arrabbiata. Ah, perdono, perdono. Ti stavo cercando, sai. E tu chi saresti mai? Accompagno la ragazza. Voi altri non andreste a farvi una passeggiatina? Ehi, ma che... Ma cosa? Che succede? Un momento! Staccati! Non ci riesco! Li devi perdonare. Non è cattiva gente. Dove andavi? Mi offro di farti da accompagnatore. Ma no, stavo andando solo al negozio di Cesare. Fa finta di niente, mi stanno inseguendo. Cammina! Scusami, ti ho coinvolto, mi sa. Di qua. Bene così. Distendi le gambe e continua a camminare. Così. Non essere spaventata. Molto brava. Ma non è possibile. Vieni a dire proprio a me. No, di certo. Io attirerò la loro attenzione. Tu aspetta un pochino prima di uscire. Sì. Brava bimba. Prego, la ringrazio. Dei cioccolattini chiamati letti. Allora, letti, voltati di qui. Che ha finito. Ecco, letti, andiamo a fare una passeggiata. La mia sorellona. Letti, cerca di tornare presto. Sorellona. Letti. Ma che è successo? Mi hanno detto che sei scesa dalla veranda. Sei per caso diventata un angelo? Io, ecco, mi sembra di stare sognando. Letti, perché non utilizzate l'ufficio? Io dovrei essere ancora al lavoro. La ringrazio. Che? Ma non sarà mica stato uno stregone. Era una persona tanto buona. Mi è venuta a salvare. E così, sorellona, vorresti dire che ti ha ghermito l'animo? Se questo stregone fosse stato Howl, ti avrebbe potuto mangiare il cuore, sorellona. Non c'è problema. Howl non mette gli occhi che su belle donne. Ci risiamo di nuovo. Senti un po', stare a questo mondo si sta facendo pericoloso. Dicono che ci sia persino in giro la strega delle Lande. Sorellona? Eh? Insomma. Ehi, Letty, le Maddalene sono sfornate. Sì, solo un momento, eh. D'accordo. Beh, io me ne ritorno a casa. Vedendo il tuo viso energico mi sono tranquillizzata. Salve, Letty. A lei, buon lavoro. Senti, sorellona, ma hai davvero intenzione di stare per tutta la vita in quel negozio? È il negozio a cui papà teneva così tanto. E io sono la figlia maggiore. Non intendevo questo. Dico se vorresti veramente diventare una cappellaia. Ecco. Letty, ci vediamo. La prossima volta passi in negozio. Sì. Allora io vado, eh. Sorellona, di se stessi, bisogna decidere da se stessi. Sì. Mi scusi, ma il negozio sarebbe chiuso. Sono spiacente, credevo di aver chiuso la porta a chiave, ma... Una bottega mediocre. Dei cappelli mediocri. E anche tu sei alquanto mediocre, vero? Questa è una modesta cappelleria di quartiere. Prego, vada pure, per favore. Mettersi a rivaleggiare con la strega delle Lande. Un bel coraggio! La strega delle Lande? Di questa maledizione non potrei parlarne ad alcuno. Salutami, Howl, eh? Ma sarei davvero io. Devo stare calma. Devo stare calma. Vedersi non porta nulla di buono, Sophie. Non è niente, non è niente. Devo stare calma. Devo stare calma. Sono a casa! Signora! Che ne dite di questo? Inizia ad andare di gran moda, Kingsbury. Dai, come hai visto? Maledona proprio! Non pensate che avrà per forza successo? Sophie? Sophie, ma che... Signora, la signorina Sophie oggi non è scesa. Eh? Che le sarà capitato? Sophie! Sophie! Sophie! Non aprire! Ho un tremendo raffreddore! Non vorrei attaccartelo! Che voce terribile! Sembra come di una nonnetta novantenne! Oggi starò a letto tutto il giorno! Ah, sì? Beh, ci vediamo! Va tutto benone, nonnina. Sembri proprio in salute. E anche il vestito ti dona più di prima. Però qui non posso certo rimanerci. Oh, ai ai ai ai, ma quanto è dura la vecchiaia. Pare che questa guerra diventerà un conflitto su vasta scala. Sai te? Addirittura. Io andrò da quel tizio che lavora a palazzo. Nonnetta, serve una mano? Mi contenterò della sua gentilezza, la ringrazio. Non c'è problema, nonnetta, ma dov'è che devi andare? Un po' più avanti di dove siete diretti voi. Lascia perdere, nonnetta! Da qui in avanti ci girano solo stregoni! Grazie molte! Ma se ne sta andando alla valle incavata! Dice che c'è la minore delle sue sorelle. Non è che abbia fatto molta strada. Meno male che almeno i denti sono rimasti quelli di prima. Sarebbe un buon bastone. Forse è un pochino troppo grosso. Ma che ramo ostinato. Non sottovalutare la nonnetta Sophie. Forza! Uno spaventapasseri. Temevo fossi un altro sgherro della strega. Ma dimmi tu, come mai te ne stai tutto da solo? La tua testa è una rapa. Io, sai, è da quando ero piccola che non sopporto le rape. Beh, è sempre meglio che startene sottosopra. Stammi bene! Ah, che freddo! E la città è ancora così vicina. Ma no, non mi devi! dire, non c'è mica bisogno che contraccambi. Anche tu sarai un qualcosa di magico, giusto? Di streghe e di maledizioni, ne ho abbastanza. Va pure a piantarti dove preferisci. È proprio perfetto, ti ringrazio molto. E già che ci sei, se potessi portarmi anche una casa dove passare la notte, non andrebbe male. Pare che con la vecchiaia ti cresca la furberia. Questo è odore di fumo, che possa esserci una capanna. Oh. Essa. Testa di rapa, ma quello non è il castello di Howl. Dico, ti avevo chiesto di portarmi una casa, ma non pensavo. Io comunque entro, ti ringrazio. Per quanto possa trattarsi di Howl, non credo che mangerai il cuore di una nonnetta così. Stavolta zio sul serio. Sarai anche una rapa, ma sei stata una buona rapa. Sii felice, di posto è. Certo non sembra altro che un comune tugurio. Beh, un vantaggio della vecchiaia è che non ci si sorprende più di nulla. È una maledizione ingarbugliata, eh? Mm? Quella maledizione non sarà facile da sciogliere. Il fuoco ha parlato. E per di più fatto in modo che non puoi parlarne. Ma tu saresti Howl? Sbagliato! Noi siamo il demone del fuoco, Calcifer ci chiamiamo! E allora, Calcifer, tu sapresti sciogliere la maledizione che mi è stata imposta? Ma è facile! Se tu scioglierai la maledizione che ci tiene vincolati qui, noi subito scioglieremo anche la tua maledizione! Sarebbe a dire fare un patto con un demone, eh? E tu potresti prometterlo? I demoni non fanno promesse. Rivolgiti a qualcun altro. Noi siamo un povero demone, vincolato da un contratto e qua giù veniamo schiavizzati da Aul. Anche questo castello lo facciamo muovere noi, sai? Ah, sì? Deve essere dura, Se saprai svelare il segreto del contratto tra noi e Aul, la maledizione si scioglierà. E allora scioglieremo anche la tua maledizione. D'accordo, patto. Nonnetta! Nonnetta! C'è, ma potrà andar bene. Chi sarà mai? Città portuale! Chissà quando sarà entrata. Attendete! Siete voi, signor sindaco? Il sole si è levato già da un pezzo. Messer Jenkins si trova in casa? Il padrone è fuori. Riceverò io le consegne in sua vece. Si tratta di una lettera d'invito di Sua Maestà il Re. La guerra è ormai alle porte. Sia i maghi che gli incantatori e persino le streghe sono tutti chiamati a prestare servizio per la nazione. Si richiede che si presentino assolutamente. E quanto? Brutta faccenda la guerra. E voi laggiù chi mai sareste? Mi ha fatto entrare Calcifer. Non sono stato io. È arrivata dalle Lande entrando da sola. Dalle Lande? Che strano. Non sarà mica una strega, vero? Una strega non potrebbe mai entrare. Di nuovo, città portuale. Sarà un cliente? Attendete. Che cosa desiderano? Sono venuta al posto della mamma. Di nuovo il solito incantesimo? Restate cheta. Ma che? Non sono le Lande. Nonnetta, ma sei anche tu una strega? Eh? Proprio così, sono la strega più spaventosa del reame. Spargendovi questa polvere sulla vostra barca spirerà un buon vento. Sì. Ben gentile. Saranno guai a raccontar frottole. Tu dovresti smetterla con quel travestimento. Non è un travestimento, è una magia. Kingsbury, la porta! Attendete. Si tratta a costi della dimora del mago, il mastro Pendragon? Senza fallo. Arreco una lettera d'invito da parte di Sua Maestà il Re. Vi chiedo di riferire al mastro Pendragon di presentarsi assolutamente a palazzo. Vi ringraziamo per il disturbo. Oh. Si direbbe proprio una capitale adatta a un re. Se non si fa indietro, ci rimetterà il naso. insomma, non stia a gironzolare, per favore. Continuando così sarà meglio fare scorta di cereali. Fate un tal segno che comunque vada ci sarà bisogno. Vedo di piantarla, per favore, mi sto arrabbiando. Questa qui è una casa magica, vero? Insomma. E il settore nero dov'è che conduce? Lo sa solo il signor Howe. Beh, io faccio colazione. Ma c'è della pancetta e delle uova. Se non c'è il signor Howe, non si può usare il fuoco. Vedrò di pensarci io. Ma è impossibile. Calcifer dà ascolto solo a quel che gli dice il signor Howe. Proprio così, non ci metteremo certo a cucinare. Ma guarda un po', il cappello era finito qua giù. Allora, Calcifer, mi raccomando, eh? Non esiste! Noi siamo un demone! Non prendiamo ordini da nessuno! Se non farai come ti dico, ti verserò dell'acqua addosso, oppure potrei anche riferire a Howl del nostro patto. C'è. Non avremmo dovuto far entrare una nonnetta simile! Beh, che facciamo? Così, da bravo, eh? Che la pancetta ti si bruci! Calcifer, fa come gli è stato detto! Vorrei anche del tè, ci sarebbe un bollitore? Sì! Dunque, ecco... Signor Howl, bentornato! Sono arrivate delle lettere da parte del re, sia per Jenkins e così anche per Pendragon. Calcifer, ma come siamo obbedienti, eh? È lei che ci ha bistrattato! Non si tratta certo di una cosa da tutti. Chi saresti tu? Io sono la nonnetta Sophie. Ecco, sì, la nuova donna delle pulizie di questo castello. Lascia pure a me. Potresti darmi altre due fette di pancetta e passarmi 6 uova? Buono! Donna delle pulizie, chi l'ha deciso? Beh, ma sono stata io. Una casa così sporca non si è mai vista da nessuna parte. Ehi, Markle, i piatti! Tutti quanti a bistrattarci! Prego, anche lei, signora Sophie. Si sieda qui. Scelga su. Non ce ne sono altre a non essere sporche. Di lavoro pare ce ne sarà un sacco. A te, Markle. Sì. Signora Sophie. Oh, grazie. Signori, il nostro pasto. Buon appetito. Buon appetito! Fare una colazione come si deve, da quanto tempo? Da insegnare pare ce ne sarà un sacco. E dunque, che sarebbe la cosa che è dentro la tua tasca? cosa sarà? Me la passi? Si è incenerito, signorol, ma questo... È una stregoneria molto antica e peraltro assai potente. Sarà la strega delle Lande. Tu, colui che catturò una stella cadente, o uomo senza animo, il tuo cuore è una mia proprietà. Il tavolo si è tutto rovinato. Anche se la bruciatura è sparita, non lo è la maledizione. Signori, continuate pure a consumare il vostro pasto. Calcifer, muovi il castello fino a 100 chilometri. Buono, buono. Buono. E inoltre, fammi arrivare acqua calda in bagno. Anche questo! Signora Sophie, ma lei è uno sgherro della strega? Ma non dire stupidaggini, sono io che dalla strega delle... Dannata strega delle Lande, quando ci rivedremo non la passerai liscia. Muoviamoci a mangiare. Ehi, insetti, datevi una mossa a sgorgiare o vi spazzerò via. Questi a 15 prendono tutti il gioco di me. Avrei un incantesimo da chiedere. Ripassi più tardi. All'interno sta infuriando una strega. Sophie! Sophie! Ci stiamo spegnendo! Se non ci dai della legna, moriremo! Ma che stai facendo? Cadiamo! Sta attenta! Devo togliere la cenere. Faccio subito, eh? Non va, no che non va! Sta attenta! Ci spegniamo! Non va! Cadiamo! Cadiamo! Cadiamo! Ehi, Sophie, fa presto! Au! Potresti cercare di non bistrattare troppo il mio amico. Signor Owl, state uscendo. Markle, di alla signora delle pulizie di fare le pulizie con moderazione. Sophie, ma ha combinato qualcosa? Ci ha bistrattato! Se noi morissimo, morirebbe anche Owl, sai? Io sono la donna delle pulizie, il mio lavoro è fare le pulizie! No! Al piano di sopra no! Fossi in te, mi affretterei a metter via le cose a cui tengo. La mia assenza la tenga per dopo! Con la sfuriata pare ci siamo fatti energici, eh? Ma che casa strana! Davvero? bello, eh? Il lago delle stelle lo chiamano. Oh? Mm? C'è qualcosa incastrato lì dentro. Guarda, guarda. Marco, dammi una mano. È uno spaventapasseri. Si chiama Rapa, dalla testa di Rapa. Ehi, tu, ma ti piace proprio stare sotto sopra, eh? Quel bizzarro essere mi si è affezionato. Deve aver seguito me, sai? Sophie, ma lei davvero non è una strega? Ma sì, certo. Sono la strega più amante del pulito del reame. Pare si sia appassionato al bucato, eh? Grazie a lui si asciugherà in un baleno. Chissà che Rapa non appartenga alla stirpe dei demoni. Calcifer non se l'ha presa. È vero, potrebbe essere un dio della morte. Però, se mi ha fatto giungere in un posto simile... Sophie, abbiamo ritirato il bucato. Ah, ti ringrazio. Ormai dovremmo rientrare, eh? Ma che mistero. È la prima volta che provo un tale senso di quiete. Che puzza! È odore di creature e ferro bruciati. Se volerai troppo, non riuscirai più a ritramutarti. Non è grandioso? È stata Sophie a lasciarmelo. È una guerra terribile. Dal mare a sud fino alla frontiera a nord era un mare di fuoco. Noi li detestiamo, i fuochi di polvere da sparo. Quei tizi proprio non sanno cosa sia l'educazione. Mi hanno attaccato dei miei simili. La strega delle Lande? No, erano degli scagnozzi, però tramutatisi in mostri. Quelli lì si ritroveranno a piangere dopo. Innanzitutto non potranno tornare umani. Non avranno problemi, dimenticheranno anche cosa sia il pianto. Anche tu sei stato convocato dal re, giusto? Beh, più o meno. Mandami acqua calda in bagno. Eh? Un'altra volta! Già, che usa troppa acqua calda. Penso che il signor Owl non mangerà affatto. Non importa. Buongiorno. Buongiorno. Non è incantevole il mercato mattutino? Io non ero mai stata al mare. Com'è bello, tutto luccicante. È uguale al solito. Io le detesto le patate. Paga, su. Grazie infinite. A voi. Tutto pesce fresco appena sbarcato. Quello è squisito. Io lo detesto il pesce. Sono ritornati! Guardate, sta rientrando la flotta militare! Pare ci sia stata un'altra battaglia. Sul serio? Signore, ripassi dopo. Sembra sia in fiamme. Ehi! Incredibile. La nostra corazzata è stata abbattuta. Sta affondando! La flotta! Non ci credi! Guardate! È pazzesco! Sei stata sconfitta! Forza! Forza! Sophie, proviamo ad andare più vicino. No, io non reggo queste cose. Rientriamo. Possibile che abbiano ridotto così la più moderna delle corazzate. Pare li abbiano abbordati al di là del promontorio. Marco, ci sono gli uomini di gomma, eh? Non ti muovere. Sono sgherri della strega delle Lande. Se n'è andato. Che quei mostri siano invisibili alle altre persone. Oh! È quella nave! È quella che ha bombardato! Sophie! Quella è una corazzata nemica! Sono volantini! Sophie! Dei volantini! Sophie! Non prendeteli! Non prendete i volantini del nemico! Sophie, va tutto bene? Un bicchiere d'acqua, per favore! Sì! Sophie! Hai trafficato con l'armadietto del bagno! Guarda! Sono diventati di questo colore così strambo! Ma che bei capelli! Guardali bene! Sophie, trafficando con l'armadietto hai scombinato tutti gli incantesimi! Non ho trafficato, ho solo fatto pulizia. Pulizie, pulizie! Ecco perché ti avevo detto di farle con moderazione, le pulizie! Non c'è più speranza. Che razza di immane umiliazione. Non è che sia poi così tanto grave. Io penso che siano belli anche così, in questo modo. Ormai è la fine. Senza avere la bellezza non c'è alcuna ragione di vivere. Smettila! Owl, fermati! Sta richiamando gli spiriti dell'oscurità. Li aveva già evocati una volta che una donna l'aveva respinto. Eh? Su, Owl, adesso smettila. Se è per i capelli, basterà ritingerli. Eh? Oh. Insomma, Ulfo, come ti pare? Per quanto mi riguarda, io ballare non sono stata neppure una volta! Non ne posso più di questo posto! Grazie, Rapa. Sei uno spaventapasseri gentile. Sophie, ti prego, torna indietro. Ci sono problemi col signor Owl. Owl, smettila! Ci spegneremo! Sophie! Presto, vieni! Che sceneggiata. Ma sarà morto? È tutto a posto. Di collera non è mai morto nessuno. Marco, dammi una mano. Sì. Marco, l'acqua calda in abbondanza! Forza, cammina sulle tue gambe! Marco, ti affido il resto! Sì! Mi toccherà ripulire da capo. È latte caldo, bevilo su. Allora te lo lascio qui. Bevilo prima che si raffreddi, eh? Non andare, Sophie. Beviamo il latte? La strega delle Lande è alla ricerca della mia casa. Ho intravisto i suoi sgherri al porto. Io, in verità, non sono che un vigliacco. Questo ciarpame sono tutti incantesimi per tenere lontana la strega. Ho paura, paura da non reggere. Senti, Owl, ma come mai sei preso di mira dalla strega delle Lande? Pensando che fosse una persona interessante, fui io ad avvicinarla. Dopodiché sono scappato. Era una persona spaventosa. E poi adesso sono stato convocato dal re per la guerra, sia come Jenkins, sia come Pendragon. Ma quanti sono i nomi che usi, Owl? Solo quanti me ne servono per vivere libero. Non potresti rifiutare le richieste del re? Lassù, quando entrai alla scuola di magia, mi fecero fare giuramento. Senti, Owl, perché non vai a far visitare? Dovresti dirglielo chiaramente. Finitela con questa guerra insulsa. Io non vi posso prestare aiuto. Sophie, tu non la conosci, quella gente. Però è il re, giusto? Essere un re significa pensare al bene di tutti, giusto? Ma certo! Sophie, basterebbe che ci andassi tu al mio posto! Spacciandoti per la madre di Pendragon, sai? Dovrebbe bastare che tu andassi a dire che tuo figlio è un mascalzone buono a nulla. Forse così anche Madame Saliman rinuncerebbe. Madame Saliman? Ma ti metti quel cappello? Dopo tanto sforzo per abbellirti il vestito con la magia. Allora vado, Torna presto! Un amuleto affinché tu possa tornare incolume. Non preoccuparti, io ti seguirò dopo aver mutato aspetto. Avanti, adesso vai! Ho come il sospetto che non funzionerà affatto. Non mi dire, ma per vegliarmi non si trasformerà mica in corvo. Howl si trasformerebbe in qualcosa di più appariscente. Impossibile. Ma com'è lontano il palazzo reale. Ecco, oltre quel sedile. Prego, signora, salve pure. Ehi, ma tu non sarai mica Howl, vero? Insomma, tra tante scelte trasformarti proprio in un vecchio cane. Ma tu lo sai quanto sia dura la vecchiaia? Da quanto tempo? La cappellaia di quella volta, giusto? Strega delle Lande! Grazie per aver recapitato il biglietto a Howl. E lui come sta? Tutto tremante come una foglia, mentre io, grazie a te, adesso lavoro come donna delle pulizie. Mi rallegro per te. A proposito, ma tu come mai ti stai recando dal re? In cerca di impiego. Non ne posso più di stare da Howl. E tu piuttosto come mai? Io sono stata invitata dal re stesso. Alla fine anche quella stupida di Saliman pare che abbia bisogno dei miei poteri. Prima di questo, pensa a sciogliere la maledizione che mi hai imposto. Ah, ma non si può, per quanto io sappia dispensare maledizioni. Non sono strega da scioglierne. Con permesso ti precedo. Ehi, aspetta un momento! Ti ho detto di aspettare! Ma insomma, non ci fossi stato tu l'avrei picchiata col bastone. E voi, ma che vi è preso? Signora, da qui in avanti i trasporti sono proibiti. Vogliate procedere a piedi? Dannata Saliman. Hai disposto un campo magico per portarmi a dover salire la scalinata? La raggiungiamo. Fa finta di niente. Insomma. Pesi, ma perché sei così pesante? Ehi tu, aspetta un attimo! Ma cosa c'è? Ti sei per caso ricordata come si sciolgono le maledizioni? Ti ho già detto che io non lo so! Allora mettiti a studiare! Oh, ma quanto è strano! Come fa ad avere tanta energia? Ti metto un pochino giù. Ehi tu, per oggi lascia perdere. È impossibile. Io sai, da quando mi scacciarono da qui per 50 anni Nelle Lande, ho sempre atteso che arrivasse questo giorno! Beh, allora fatti forza. Io non sono certo tanto gentile da venire a darti una mano, sai? Vieni, Howl. Insomma. Ma che razza di insensibile! La prossima volta ti renderò ancora più decrepita! Sbrigati, vieni! Prego, mi segua, signora, le faccio strada. Prima di questo dovrebbe andare ad aiutare quella persona. Il prestare aiuto ad alcuno è cosa che mi è proibita. Ma come? Eppure invitarla non era stato il re. Ehi, tu! Metticela tutta! Ancora un pochino! E dovresti essere una strega! Sta un po' zitta! Ehi, ma sei invecchiata di colpo? La signora Pendragon e sua eccellenza la strega delle Lande! Cerca di riprenderti. Non era da tanto che desideravi venire qui? La signora Pendragon e sua eccellenza la strega delle Lande! Pendragon? È un nome che mi suona familiare. Ma naturalmente era il nome della cappelleria dove lavoravo io. Era così? Prego, attendete qui. Una sedia è tutta mia! Howl, torna qui! Voi, signora, da questa parte. Così voi sareste la signora madre di Howl? Sì, rispondo al nome di Pendragon. Sarete affaticata. Prego, sedete. Sì. Io sono Saliman, la maga al seguito della corona reale. Scusate, ma quel cane? Vi riferite a Hin? È il mio cane di servizio. L'avevo mandato a farvi da guida. Insomma, Howl non si presenterà? È un figlio tale da immolare la madre al suo posto. Non credo potrebbe mai risultare di utilità al re. La faccenda si è fatta problematica. Per quanto quel ragazzo fu l'ultimo dei miei allievi, lui possedeva un talento straordinario. Certa di aver infine fortuitamente trovato il mio successore, fui davvero felice. Tuttavia, quel ragazzo si fece rubare l'animo da un demone e così si allontanò da me. Iniziò a utilizzare la magia soltanto per se stesso. Signora madre. Sì. Quel ragazzo è molto pericoloso. Anche se ha perduto l'animo, possiede un eccessivo potere. Continuando così, Howl finirà per diventare come la strega delle Lande. Portatela qui. Ehi, tu, ma che ti è successo? L'ho soltanto fatta tornare alla sua vera età. Eh? non ha più poteri magici. Anche quella persona fu in passato una maga di somma magnificenza. Ma stringendo poi un patto con un demone, per lungo tempo si fece consumare sia nel corpo che nell'animo. Adesso il regno non si può permettere di lasciare campo libero a maghi o streghe inaffidabili. Se Howl verrà qui e si metterà al servizio del regno, gli insegnerò il modo per spezzare il suo legame con il demone. Se non verrà, lo priverò del suo potere, come quella donna. Se permettete una parola. La ragione per cui Howl non voleva venire qui è bene, l'ho capita. Questo posto è strano. Fate fare scalinate a persone anziane, anche se invitate da voi. Le portate in stanze strane, proprio come fosse una trappola. Howl non avrebbe un animo, dicevate? Certamente è un egocentrico, un codardo e non si capisce cosa gli passi per la testa. Però lui è una persona corretta. Vuole solo vivere libero. Howl non verrà e neppure diventerà un demonio. Col demone in qualche modo risolverà di certo da solo. Io ho fiducia in questo. Signora madre, siete innamorata di Howl, eh? Howl? Sta forse arrivando Howl? Lo desidero, desidero il cuore di Howl. Ehi tu, vedi di piantarla. Howl non sta affatto venendo. E invece Howl verrà. Ho appena scoperto il suo punto debole. Vostra maestà. No, comoda. E allora come va la salute? Grazie della premura. Le riunioni sono una noia. Mi sono fatto un volo come diversivo. Ma certo, ma certo. E queste persone? La signora e la madre del mago Howl. Ah. Oh. Apprezzo lo sforzo, ma io non ho intenzione di vincere battaglie con la magia. Certamente, grazie ai poteri di Saliman, le bombe nemiche non si abbattono su questo palazzo reale, ma al posto cadono sulle città circostanti. La magia è una cosa che va così, no, Saliman? Oggi vostra maestà è eloquente. Saliman! Siamo alla battaglia finale. Questa volta li spazzeremo via. Oh? Saliman, stavolta il guerriero Umbra ti è venuto proprio bene. Aspetta buone nuove. Obbligatissimo. I generali si sono riuniti? Sì. Howl, da quanto tempo? Lieto di trovarvi in salute, maestra. Ti avevo riconosciuto sin dall'inizio. Ho prestato fede al giuramento. Non ho alcun desiderio di combattere con voi, maestra. Vado via portando mia madre. Non ti farò fuggire. Non guardare in basso. Che potere tremendo. Mostrerò a tua madre quella che è la tua vera natura. Reggetevi! Sophie, passa davanti! Ah, Sophie, li hai portati tutti con te! Cagnetto! Tu devi essere una spia di Saliman, non è vero? Beh, pazienza, ormai non c'è modo di farti scendere. Sophie, prendi il timone. Eh? Ma non posso farla una cosa simile. Ci stanno inseguendo. Oh? Di loro mi occuperò io. Tu continua a volare così fino al castello nelle Lande. Eh? Ma questo è impossibile. Andrà tutto bene. La direzione ti verrà indicata dall'anello. Prova a invocare Calcifer all'interno del tuo animo. Calcifer? Sta brillando. Basterà volare in direzione della luce, arriverai per la notte. Ma insomma, Howl, se poi sei venuto tu, non c'era bisogno che andassi io. Sono riuscito a venire perché sapevo che c'eri tu. Credi che sarei mai andato da una persona così spaventosa da solo? Grazie a te mi sono salvato. Prima mi trovavo davvero in pericolo. Ah, non mollarlo! Non te la cavi benone? Ma dove? Li abbiamo distanziati un po'. Posso darti soltanto 5 minuti di invisibilità. Involati in questo tempo. Non serve, grazie. Oh, ti ringrazio. Un po' d'emozione, da quanto tempo. Howl crederà di essere riuscito a fuggire. Certo, era una madre estremamente giovane. Andate! Ormai manca poco, quella è la mia città natale. Non prenderti tanta confidenza, guarda che di te non mi fido mica. Il castello, vengono a prenderci! Sophie! Marco, il problema! Non so come si fermi questo coso! Hai esagerato! Che sia ritornato Howl. Yeah. Howl. Sei Howl, vero? Soffri, sei rimasto ferito, non è vero? Non venire. Io voglio poterti aiutare. Voglio sciogliere la maledizione che ti è stata imposta. Tu che non riesci a sciogliere neanche la tua di maledizione. Ma io sono innamorata di te, io ti amo. È tardi. Presto a svelare il segreto del contratto tra noi e Howl. Noi altri oramai non abbiamo più tempo. Vuoi dire che Howl diventerà un demonio? È proprio così? Ma non possiamo mica dire cose simili. Noi siamo un demone, eh? Sai, Calcifer, mi ha detto Saliman che Howl ha consegnato a te qualcosa di molto importante. Di che si tratta e dove si trova? Del segreto del contratto noi non possiamo parlare. E se ti minacciassi di spegnerti con dell'acqua? Ma cosa dici? Così poi morirebbe anche Howl. Buongiorno, Rapa. Bisogna farsi coraggio. Sophie! Andiamo! Forza! Forza! No! Vuoi spostarti? Insomma! Chiameranno anche il castello, ma visto dall'interno è un ammasso di ciarpame. Gente, a tavola! Prego, nonnina. Sofì, non ci piace! È la strega delle Lande! Ormai non c'è problema. Ma non fa che fissare noi! Ma che bel fuoco! Oh, Howl! Salve a tutti! Bentornato. Signor Howl, posso tenerlo, questo cane? La nonnina strega e il cane della maestra Saliman, eh? Calcifer, li hai ben fatti entrare nel castello! Vediamo di non scherzare! È Sophie che si è buttata dentro con tutto il gruppo! Abbiamo fatto di nuovo scena, eh? Salve, tu devi essere Rapa, eh? Anche su di te c'è una maledizione complicata. Certo che la nostra famiglia è piena di gente complicata. Che bel giovanotto. Dunque, quello di oggi sarà un giorno impegnato. Si trasloca. Trasloco? Meno male. Solo con il castello non si potrebbe fare la spesa. Se rimanessimo qui, finiremmo subito scoperti dalla maestra Saliman. Tu però non potrai fare a meno di restartene da parte. Hai un potere magico troppo forte. Benone. completato. Calcifer, puoi andare! Bene, proprio ben fatto. Restate lì per un po'. Cerca di fare piano. Cominciamo. Trasloco terminato. Ormai potete scendere. Ah, fantastico, mio signore, com'è spazioso! Ma che bel fuoco! A questo luogo? Ho creato anche un gabinetto, visto che la famiglia è cresciuta, sai? Sofì! Vieni da questa parte! Sofì! Ho aggiunto anche un'altra stanza. Entra, su! Ma questo posto, perché? E fare una camera per Sofì, ho pensato. Ti soddisfa? Ma certamente, perfetta per una donna delle pulizie. Ti ho messo anche dei cambi d'abito, dopo guardali. Proseguiamo. Sofì, vieni di qua! Fa presto! Un cortile! E c'è anche un negozio! Andiamo! Sofì, coi colori della porta cambiati, sai, c'è una nuova uscita. Un regalo per te, Sofì. Su, prego. Questo è il mio giardino segreto, sai? Fantastico. Anche questa è opera della tua magia. Giusto un pochettino per aiutare i fiori. Sofì. Ma che mistero, io sai, ho la sensazione di esserci già stata in questo posto. Mi vengono fuori le lacrime. Vieni. Sì. Su, guarda. Ah. Una casina piccina. È il mio preziosissimo rifugio, sai. Nelle estati della mia infanzia venivo spesso a passarci del tempo da solo. Ma da solo? Devi sapere che un mio zio mago mi aveva lasciato questa capanna in gran segreto. Ma tu, Sofì, usala pure come più ti piace. Che cosa c'è? Ho paura. Ho il sentore che se entrerò nella capanna tu sparirai da qualche parte. Howl, avanti, dimmi la verità. Io sai, tu fossi anche un mostro, mi andrebbe bene. Io Io voglio soltanto fare in modo che tu e gli altri possiate vivere in tranquillità. Venendo a raccogliere i fiori qua giù, magari non si potrebbe fare i fiorai in quel negozio. Eh? Tu ce la faresti alla grande. E poi, Howl, tu te ne andresti? Io voglio poterti essere di un qualche appoggio. Anche se non sono di certo bella e magari non potrei fare che le pulizie. Sophie, tu sei bella, Sophie. Beh, il vantaggio della vecchiaia è che si ha così poco da perdere. Giunti fino a un posto simile. Una corazzata. Che va a bruciare città e persone. Saranno nemici o amici? Gli uni o gli altri è la stessa cosa. Guarda quante bombe si portano dietro. Si sono fermate. Howl, sei stato tu? Ho giocato un po'. Non si schianteranno. Howl! Oh là là! Se ne saranno accorti? Sottoposti di sottoposti della maestra Salima. Torniamo indietro! Corri, devi muovere le gambe! Fino alla dentro! No, lasciami andare! Sophie, cos'è successo? Ora ne ho abbastanza di questa casa! Sophie, buonanotte! Buonanotte. Sophie, non c'è da preoccuparsi per il signor Howl. È già capitato che non tornasse per più giorni. Ti ringrazio, Markle. Gabinetto? Sono a posto. Le auguro buonanotte. L'amore? Tu da prima continui a non fare altro che sospirare. Ho indovinato, eh? Nonnina, lei è mai stata innamorata? Ma questo è certo! Lo sono anche adesso. Eh? Quando si tratta di uomini c'è ben poco da fare. Ma un cuore giovane così bello! Da non credersi. E poi loro sono carini, eh? Oh. Ma cosa sarà? L'allarme antiaereo. Antiaereo? Non è di questa città, però stanotte sarà meglio non uscire, eh? Là fuori gli emissari di Saliman stanno cercando questa casa dappertutto. Ma che bel fuoco, che nasconde ben bene la casa. Mamma. Sophie! Ah! Ah! Ma dove te ne eri andata? andata a finire? Ti abbiamo cercato così tanto. Oh, ma ti sei ridotta come una vecchietta. È stata tutta colpa mia. Perdonami, Sofì, perdonami. Ma hai rinnovato tutto quanto, eh? E quella persona chi sarebbe? Ah, la padrona, eh? Oh, Sofì, io ho ripreso marito. Eh? È una bravissima persona e per di più anche pieno di soldi. Possiamo vivere di nuovo tutti insieme. Non dovrai più fare la donna delle pulizie. Io però sono soddisfatta della sistemazione che ho adesso. Ah, sì? Accidenti, c'è la macchina che sta aspettando, devo andare. Sofì, sono davvero contenta di averti ritrovata. La prossima volta. Un insetto spione, anche Saliman usa trucchi vecchi. Su, calci, bruciano! Mamma, sii felice. Ti ringrazio, Sofì, anche tu. Ho fatto come mi avete detto, riportatemi da mio marito. Sì, anche la maestra Saliman sarà certamente soddisfatta. Scusami tanto, Sofì. Ma che folla incredibile. Stanno fuggendo tutti, l'intera città finirà per svuotarsi. Vorresti andare anche tu, Sofì? Che? La persona di prima così ti diceva. Già, è vero. Sono lieta che ci siamo ritrovate. Sofì, non andare! Ah! Io ti voglio bene, Sofì. Rimani qui. È lo stesso per me, Marco. Tranquillo, non andrò. Davvero? La nostra è una famiglia. Certo, è una famiglia. Che bello! Ma quella Saliman, io Howl non lo lascerò mai. Crederci sono soltanto gli stupidi. Certo che è strano. Calcifer non avvanta per niente. Nonnina potrebbe finirla con quel coso. Fa un odore orribile. Su, non privare un'anziana del suo diletto. Marco, apri la finestra. Credo sarebbe meglio non aprirla la finestra. Con il potere di Calci che si è fatto più debole, quegli altri verrebbero a entrare. Marco, no! Presto, richiudila! Marco, pensa alla nonnina, vado a vedere al negozio! Se avete così poco da fare, pensate a spegnere gli incendi! Quanta scena! Howl! Mi dispiace, stanotte gli avversari erano troppi. Calcifer, cerca di riprenderti. Madame, quello sarebbe un regalo della maestra Saliman, non è vero? Quella nonnetta ci ha dato una cosa strana da mangiare. Guarda, tu non sei Howl? Gradirei proprio fare una bella chiacchierata con te. Vorrei lo stesso anch'io, madame. Tuttavia, adesso non ve n'è il tempo. Quale rarità che tu non te ne stia scappando via. Dunque, a dopo. Sophie, tu resterai qui. Calcifer saprà proteggerti. L'esterno lo veglierò io. Aspetta! Howl, non devi andare! Rimani qui! Arriva il prossimo attacco aereo. Nemmeno Calcifer può scongiurare le bombe. Fuggiamo via! Non devi combattere! Perché? Io sono già fuggito a sufficienza. Finalmente ho trovato una persona che sento di dover proteggere. Sei tu. Quella è la nostra città. Laggiù deve esserci Howl. Locare. Ma è assurdo! Laggiù è tutto vuoto! No! Finché noi staremo qui, Howl continuerà a combattere. Ma lui sta meglio come codardo. Nonnina, si alzi. Passeggiata? Così verremo subito scoperti da Saliman! Siamo già stati scoperti, ma continuando così, lui non farà più ritorno. Sophie! Il castello cade a pezzi! Fa niente! Marco, pensa alla nonnina! Devi venire anche tu. Monta! È impossibile! Noi per contratto non possiamo allontanarci dal focolare! Se voi altri non ci riuscite, allora lo farò io per voi! Ah, sta attenta! Fermati! Fermati, ti ho detto! Ferma! Se noi ne usciamo, questa casa crollerà! Sia! Siamo fuori! Allontanati! Sarà meglio far uscire noi per ultimi! Quello che potrebbe succedere non lo sappiamo neanche noi! Te l'avevamo detto che sarebbe crollato. Ah, la pioggia! Andando alla città! Marco, tu pensa alla nonnina. Rappa, cerchiamo un passaggio d'ingresso. Nonnina, non si preoccupi, ci sono qua io con lei. Marco, possiamo entrare da qui! Il soffitto vento gocciola! Ci spegneremo! Aspetta qui, eh! Ehi! Ma è tutto bagnato! Fa presto! È umido! Marco, porta qui la nonnina! Il castello è svuotato! Lo dicevamo noi, dove eravamo insieme con Aul, vi avremo protetto! Calcifer, te ne prego, tu sei l'unico che possa farlo. Voglio andare dove si trova Aul, fa muovere il castello. Eh? Tu puoi riuscire a farlo, è straordinario il potere che hai. Però sai, qui non c'è neanche il camino ed è tutto umido. Ma sin dall'antichità non si dice forse i fuori classe non si scelgono il campo? In effetti sarebbe così, ma sai... Dici davvero? Calci, che bello che sei! Nonnina, prego! Allora, Sophie, puoi darci qualcosa di tuo? Di mio? Solo noi non bastiamo. Tipo i tuoi occhi? Gli occhi? E questa qua? Sono ancora più fantastico. Un cuore? Dovrebbe esserci un cuore? Oh sì! È laggiù che si trova Aul. L'hanno circondato. No, ho fatto una cosa tremenda. Ho gettato dell'acqua su Calcifer. Se Aul morisse, cosa farei? Sta vibrando. Allora Howl è vivo. Indicami dove si trova. La porta del castello. Adesso devo trovarmi nell'infanzia di Howl. Sì, cammino. Sto camminando, Hip. Ma le lacrime non si fermano. Hip. Howl. Perdonami se sono così tarda. E tu che hai aspettato per tutto il tempo. Conducimi fino al luogo in cui si trova Calcifer. Va tutto bene. Nonnina. Io non ne so proprio niente. Non sto nascondendo niente. La prego. Nonnina. Lo desideri così tanto. Beh, c'è poco da fare. Trattalo con riguardo, eh? Sì. Ed ecco qua. Grazie infinite, nonnina. Calcifer. Sophie, siamo allo stremo. Restituendo il cuore ad Aul, tu finirei per morire. Se lo farai tu, dovrebbe andare, forse. Anche se ci hai gettato l'acqua addosso, non siamo morti né noi né Aul, in fondo. E allora proviamoci. Emana calore e si muove come un uccellino. È ancora come ai tempi dell'infanzia, sai. Possa Calcifer vivere ancora 1000 anni e che Aul possa riacquistare il suo animo. Bastone, eh? Rapa, grazie. Ti ringrazio, Sophie. Io sono il principe del reame vicino. Per maledizione fui mutato in una testa di rapa. Una maledizione che non si scioglie che con un bacio dell'amata. Precisamente. Se Sophie non mi avesse salvato, io sarei andato incontro alla morte. Ma che baccano! Cosa c'è da schiamazzare? Ah, ma è terribile! Ho il corpo che mi sembra un sasso! Proprio così. L'animo ha il suo peso. Ah, Sophie, i tuoi capelli si sono tinti della luce delle stelle. Che splendore! Howl, ti amo tanto! Che gioia! I sentimenti di Sophie li hai capiti, no? Tu dovresti ritornare nel tuo regno e far smettere anche questa guerra. È esattamente quello che farò. E quando la guerra sarà finita, tornerò a trovarvi. I mutamenti dell'animo a questo mondo sono continui. Ma guarda, hai detto proprio bene. Beh, allora vedrò di aspettarti io. Beh, cosa c'è che mi contatti soltanto adesso? Ma tu cosa stavi combinando? Lieto fine, vuoi dirmi, eh? Che doppio giochista. Beh, c'è poco da fare. Chiamatemi il primo ministro e il capo di stato maggiore. Vediamo di mettere fine a questa stupida guerra. Sì. E Calcifer! Ma non c'era bisogno che tornassi. Noi vogliamo restare con tutti voi. Pare anche stia per piovere. Grazie, Calcifer.